ortaggio. Ed è buona una ciclottavia, che è una specie di, come ti si dice, di polo. Sembra che non la becca. Ed è buona come antenna, perché stavo leggendo le recensioni ed è migliore della 8,27 e dell'altra, della Sirio, non me la metto. Ecco. E una manta quando ve la pongo, ma capisino. Ma non c'entra niente, ma la mantova è un'antenna di vecchia data ed è fatta in alluminio, però a livello di prestazioni sono uguali. Come è che è vecchia data? Che è la mia che è stata fatta da Bogo. È da Bogo in che senso? Si sono fuori produzione da più di 10 anni. Allora sì, che non l'ha già manco 10 anni. Che c'ha, cosa, mi pare lavoraggio 6-7 anni. Comunque non le fanno più quelle antenne, non ce n'è più, sono tutte fuori produzione, non ce n'è neanche in fondo di magazzino, a meno che non vi raga qualcuno in qualche negozio affrescato, allora sì, se no non ce n'è. Non ce n'è perché ho fatto una ricerca su Google e non ve ne è, né Mantova 1, né Mantova 5, né Mantova Turbo, manco una. Erano della Sigma. Esatto, sono della Sigma, esatto. Perché la produzione Sigma, ho letto un articolo, a che io faccio un mulinello della Sigma, un mulinello Sigma 080. A Rusega mulinello era negli anni 80, lì, su Iuia, anni 80, primi 90. Una rocca era su mulinello, due innaggio. Sono da spiaggia, paurate e padenti. Ecco, sì. E vabbè. Ah, vediamo. Io a meno che non hanno. Ah, la cosa viene fatto, la J-Pol l'avevano fatto l'ultima. E le stavo guardando, però come antenne mi ha dato buone, mi ha dato la, quella che ho io, quella che c'è tu, la Mantova 1, e l'altra è una, non me ne ammetto che macca è, della, no, non ricordo, comunque un paio di antenne sono. Poi ci sono le altre, quelle che stanno bene, che sono tutta un'altra cosa, avevo Cubasuria, avevo, e quindi non è fai niente. Ehi K, va bene, dai, ragazzi, io vi lascio che me ne vado a mangiare. Ci sentiamo. Ciao, buona cena quando la fate, buon tutto. Ciao, ciao Gianni, ciao Vannino. Ciao Franco, ciao Fra, buona cena e buon tutto. Te lo disegni Vanni, secondo te che antenna ci vuole per ottimare le prestazioni? Una ciclottavi con i radiali già, non è buoni ciclottavi senza radiale, che non si fa un cazzo, avatelo di che io proprio. La ciclottavi deve essere con i radiali, non senza radiali, quindi già va di antenna. Ah va, mi guppareggio la graziuri, mi guppareggio, la bunga la gubbarturi a 3 metri di baro. Bravo, bravo, la Grazioli andava fino a 2,50, non ti, la 5 ottavi deve nascere con i radiali, cioè senza radiali è un'antenna a mezz'onda, quindi non sta in chi vi ha, la Mantova è un'antenna calibrata e fatta, non ve ne giuria, quindi... Bisogna prendere e comprare, devi prendere una 58V con i radiali, bella. Kappa, già ce n'è, e adesso vediamo piano piano come sistema un po' qua all'angolo della scrivania e mi faccio passare il cavo da Davide in cameretta. Vedi a me la bongo l'antenna, ne per un bacconito di cameretta in ghibi, avere vittarida, vabbè che è uguale a dove ce l'ho adesso, però là è all'altro angolino ed è, si vede ancora di più. Bravo. 5 ottavi con i radiali e poi non sbagli. Quella è una scelta giusta. Quindi 5 ottavi con i radiali. Perché la mezz'onda è senza radiali. la natura è quella, la natura è quella. Vai Vanilo, chiudo e non riprendo. Buonasera e ben sentiti. Ciao Franco. Di nuovo, vai Vanino. E sarebbe questa direttiva, tipo la Sirio 2016, o la Tornado. E perché non si può mettere la direttiva, cosa va di adesso? Oh già, con la direttiva hai una... diciamo una produzione d'onda, cioè una, allora la verticale manda un'onda verticale, come il dipolo manda, la manda orizzontale, quindi non puoi paragonare una direttiva, non che non la, la direttiva non la metti in verticale o in orizzontale, però non la puoi paragonare. Se io metto, io col dipolo qua trasmetto in orizzontale, quindi mi copri basso per quello, hai 20 dB. Vanni da Sapiti. Vanni, queste cose bisogna prendere e studiarle. Spiegarle così in radio non va bene, ma non perché lui è tonto e cose, ma perché non va bene. Bisogna prendere queste cose là. Cosa ti posso dire? Mi trovi anche a disagio. Bisogna prendere, bisogna studiarle, studiarle, basta, finito. La verticale sua ci vuole via, non va bene. Ci vuole la Game Master mezz'onda. Finito. No, non mi vuoi altro. Lui si deve prendere la Game Master mezz'onda. Finito, basta, non ve curia. Allora poi mi possono fare tutti quanti i ragionamenti del mondo. La direttiva vuole montata in base a dove si vuole posizionare la direzione. Finito, no, non è che tu poni la direttiva, la metti a nord e ricevi tutto, non è così. La direttiva ci vuole il rotore, corrente, bisogna saperla utilizzare, installare e posizionare. E poi tutto il resto è chiacchiera, Vanni. Sì, ma lo so Vanni, questi sono discorsi fatti e strafatti e cose, ma io non lo faccio per... A me Gianni non mi va di scire di capo, nessuno mi va di scire di capo, quindi se l'intento è quello, no, io parlo per passione. Parlo per passione perché... però Vanni... tu sa di pigliare un'antenna. Un'antenna, come si dice, a chi? La Game Master è nata per la mezz'onda, perché la Game Master 5 ottavi non esiste, basta. E naturalmente è scientificamente provato che, e poi anche Vanni, tu non sei dai, quello che è nato oggi e non stiamo scoprendo niente. La 5 ottavi deve nascere con i radiali, quindi finito. E tu devi pigliare, punisci un'antenna, quanti si devi. Chi si è rubato? Basta, finito. La direttiva, è inutile che si spiega com'è la direttiva. Gianni non lo sa com'è la direttiva, non lo sa. Ma non perché è ignorante, è perché non l'ha mai provata. Un settaggio per una direttiva, se tu prendi Vanni e lo sai, e se tu metti una direttiva già invece che a 2 metri, a 2 metri e 30, cambia già l'SVR, l'SVR è in larghezza di banda, quindi non... è un discorso che non esiste. Lui si deve prendere un amanto, va come ha detto Franco. Come ha detto Franco, ma non è inutile che prende uno e dice ma è l'antenna che più è valutata. No, non è un'antenna fatta per te. Gianni, non è un'antenna fatta per te. Tu ti devi prendere un'antenna con i radiali che la metti a un quarto d'onda. A un quarto d'onda, adesso te lo dico chiaramente, a un quarto d'onda da terra, dal radiale del tetto, e allora va bene, così puoi prendere e fare da 11 metri. Inutile che si fanno discorsi della direttiva, del dipolo, no, non esiste. Bisogna avere un minimo di base e, come ti ha detto Franco, ti metti una mantova, ti metti una mantova e vai tranquillo. La metti un quarto d'onda a 7 metri, avanti, 7 metri e 20, 7 metri, a 7 metri, e tu sei a posto. Vai Vanni, chiudo e non riprendo. Gappa, e vabbè dai, adesso vediamo, piano piano. Io ho preso questa che è una Guy System, come ci si chiama, e c'era scritto che era una 5 ottavi, basta, perché mi hanno consigliato di prendere una 5 ottavi. Io quella lì ho preso, l'ho pagata poco stesso. Comunque adesso, se mi sale il flash, mi compareggio o quella Tornado oppure l'altro modello, la Monson, c'è sempre dell'assiglio, ma sono tutti rimattessi, insomma, barra me. Non sono rimattessi, se tu pigli una 5 ottavi con i radiali, dipende anche dalla lunghezza della canna e poi dalla base dei radiali, hai una ricezione diversa. Se tu prendi e la pensi così, ti compareggi un'antenna fatta a 30 euro e allora di no, ma che l'antenna è 5 ottavi, però l'hai pagata a 30 euro. Ma secondo te, ma se fra la Grazioli che costa 300 euro, 290 euro, è una Sigma che costa 50 euro, ma secondo te chi si dà la Grazioli? Sono macchi che la vendono a 300 euro. Cioè, se io ho la Grazioli e ascolto Arzachena e sono a 50 metri più in basso di te, no? E ascolto, per esempio, a Irula, e tu non ascolti. Ma anche Franco, con la Mantova, che è a 100 metri a Franco, che Franco è a 100 metri più alto di me, e non li ascolta, io li ascolto, ma secondo te? In trasmissione non mi interessa, ma mi interessa la ricezione. La Grazioli ha dei radiali che sono 2,70 m. Molti dicono, ma cosa, sono solo i materiali? No, non sono i materiali, è anche la ricezione. Quindi, se si vuole fare il radiantismo fatto come si deve, si spendono i soldi. I soldi si devono spendere. Non è che io sono l'unico scemo, oppure ci sono gli altri scemi che prendono e spendono i soldi perché ne assai. No, è perché si vuole fare da radioascolto e si vuole fare anche la trasmissione, la ricezione fatta come si deve. A che se no tutti quanti se pigliamo un'antenna da 50 euro, da 150 euro, da cosa? No, noi così. Bisogna abbigliare e quindi papà l'attività come ti si deve, come tutti quanti le passioni. Perché poi non va bene, ti copio strato, ti copio coso, ti copio, non ti copio. Bisogna spendere. Non è neanche un coso, è giusto una cosa per anche chi sta ascoltando, a chi sta ascoltando, a capire che bisogna spendere i soldi, che con 50-60 euro non si fa l'attività, no? Con rispetto a chi spende i soldi per riceverli bene. Con questo qua ho fatto il passaggio e chiudo. Buona serata, vai Vanino. Vanni, ascolta, io ho avuto la Mantova Turbo, ho avuto la Sirio, l'ho avuta quasi tutte le antenne, ma secondo te, ma se sono passato dalla Grazioli, è un motivo, no? A me a me non me li regalano, eh. È come sono passato alla Grazioli per la 27, sono passato alla Delta Loop per gli 80, sono passato alla Delta per i 40, sono passato per le U, ma secondo te, ma di cosa non va vedendo Vanni? Ma non è che uno viene e mi dice, io mi ho messo un'antenna sto andando. No, per installare un'antenna ci vogliono delle bisogna tenere delle prassi. Non è che tu pigli piazza l'antenna e si andendi. Non è così. Noi così, anche da voi, pigli e a me mi dici, non ti sento, ti sento strano. E allora, ma se tu vai in un'antenna che è starata, ti dà un E1, però quell'1E1 è 70, 80, 80 ohm, e c'è un SVR a 1,3. Ecco, quell'antenna non sta, anche se l'SVR è 1,3 e si dice che ma 1,3 vuol dire per la ricezione, non è che si va a... No, 1,3 per la ricezione vuol dire tanto. Comunque, Vanni, sono discorsi che bisogna fare in una scuola, questi qua, non in radio. In radio bisogna affrontarli, bisogna avere pazienza, bisogna avere anche tenacia per ascoltarli e cose. Vanni, io queste cose qua in radio sono questioni da fare con calma, non da fare così, perché poi sono questioni che esplodono, quindi sto buttando corrente al vento, così. Prefiro a dirti chi ha giubilato e ha giucuzzinato, perché non si apprendono, sono discorsi che non si apprendono. Qua piace schiacciare la portante, dire fesserie e parlare, basta, non affrontare discorsi concreti. Quindi dai, chiudo, buona serata a voi, vai Vannino. Cappa, andate, dai, vedo di organizzarmi. E da voi vedi che tu vuoi che avessi una beffa puzza l'antenna. E che madonna. Se no metto un palo più alto e metto quella piccolina mi. A vedere che funzionano mattessimi. Eia. Non lo so cosa comprare. Comunque, io quando ho comprato la Game Master l'ho comprata perché me l'hanno consigliata che era buona. E niente. L'ho usata e funzionava bene, però secondo chi c'è in non lo ricevo, cioè non lo sento, anche se tutti gli altri lo sentono, magari io non lo sento, magari c'è qualche zona d'ombra, qualcosa, però ci sono tanti particolari. E niente, perché io quando la stavo comprando volevo prendere tipo la Mantova 1, che sarebbe la Sirio 2016, la nuova che hanno fatto, e più o meno costa quanto quella che ho comprato, però mi hanno detto quella là senza radiali dice che era migliore, c'era più fletteva di più per il vento e praticamente era paragonabile alle altre antenne, perché questa essendo un'antenna di nuova generazione magari rispetto alle altre riceve appena di meno, però no, io queste cose non le so, io l'ho solo comprata, me l'ho fatta installare e ho visto che funzionava un po' di più, tutto qua. Poi se con il tempo me ne comprerò un'altra migliore che funziona meglio e che c'ha i radiali, e le metterò quella lì, tanto mi lui è guida e l'altra tanto è sempre fuori sopra il tetto, quindi penso che i radiali non ne diano fastidio, a meno che non me ne mangia un gabbo la gurraccio, la romanzano, a chi qui ci sono le cornacchie, è solo per quel fatto lì e basta. Ma che te l'ha detto chi te l'ha detto che questa Game Master è uguale alle altre? Chi te l'ha detto? E paragoni che ci sono, stavo leggendo, capi, non è che sto dicendo che non è buona o che è buona o che non esiste. Io ho fatto un coso, ho letto una ricerca dove dice che sono delle buone antenne, poi magari, cosa ne so io, magari essendo in una posizione alta e che magari non funziona bene, non te lo so godì, magari vi sono tanti cosi da poter controllare, da poter fare, però non lo so, io non lo so questo qua, io l'ho comprato perché mi hanno detto che era buona, poi ho fatto una ricerca, dice che era comparabile alla Mantova 1 e niente, perché hanno tipo 1000 watt di picco di potenza massima, mi pare. E niente, è lì e basta. Poi quando sarà, magari a primavera o a Pasqua, magari me la biglio buona come te la do e magari funziona anche meglio, e quella me la metto in campagna, oppure la do a Davide se la piazza in garage con la radio, con l'altra radio. Ascolta, non si tratta di prendere e di comprare l'antenna perché tu problemi di soldi non ne hai. Il problema tuo non è quello, non è il contante. Tu devi prendere in radio, si parla, in radio si parla anche di elettronica, invece di a volte dire fesserie, queste cose qua, si parla anche di elettronica. Ecco perché a volte alcuni corrispondenti non entrano in radio, perché non c'è motivazione. Quindi se tu avessi chiesto un'opinione di una 5 ottavi, nessuno che si intende, diciamo, di elettronica, ti avrebbe consigliato una Game Master 5 ottavi, ma nessuno, e nessuno ti avrebbe consigliato una Game Master a una Mantova. Cioè nessuno ti avrebbe detto prendi una Game Master a una Mantova, perché la Mantova è nettamente superiore. E questo non c'è paragone. Siccome non si chiede, in questa frequenza si entra e si dice breco breco e ta ta ta ta ta ta ta ta, come ti arrivo? No, non ha importanza il segnale. Qua ha importanza l'elettronica. Sulla 27, in qualsiasi banda radioamatoriale, perché questa qua è una banda radioamatoriale, ha tutti i difetti. Non è che voglio rimproverare nessuno e non voglio neanche fare il maestro, però bisogna anche capire che in radio bisogna parlare per quanto riguarda la competenza in elettronica. Che poi vedi cosa succede, che vai a spendere 160-170 euro e le buttati, se invece ci sarebbe stato un QSO dove si sarebbe affrontato il discorso della Mantova, della Grazioli, quella che ho io, della F10V, ti avresti conservato i soldi e ti avresti comprato un'antenna seria. Invece no, comprano le antenne mezz'onda e ti consigliano di prendere le 5 ottavi. Siccome pur che farsi vedere grandi, prendono e ti consigliano le cose non in evidenza. Questo è. A me mi dà fastidio, perché non bisogna prendere per il culo chi è meno esperto. E allora andate a lavare i piatti con vostra moglie, vi comprate le antenne che volete, però non divulgate la bugia, no? A chi vuole spendere, no? Quindi già comprati una 5 ottavi con 4 radiali. Allora, quindi adesso sto dicendo chiaro, la 5 ottavi deve essere con 4 radiali, e non vi vantate della roba che avete comprato voi che non serve una merda, no? Quindi questa perché questa frequenza, ma non questa frequenza, non la 12, non il canale 12, ma le altre frequenze, sono un coso a spendere, basta, finito. Bisogna comprare la roba buona. Quindi QSO non fateli di medicine, di cose di mangiare, fateli di elettronica. Così i corrispondenti possono comprare la roba buona. Non bisogna essere gelosi. Cioè, ma porca miseria, a me questa cosa mi dà fastidio. Vai Vannino. Ma Fanny, ma porca miseria, ma ti fai una voce, ti fai nei pigliati, ti fai nei magliaro figato. E te, ti dicono, la radio non ti sento, non ti sento. Gianni, proprio sinceramente, in queste condizioni in cui sei, non puoi prendere e dare comparazione a nessuno. Perché se tu non senti a Claudio di Usilo, tu non puoi dare proprio comparazione a nessuno con quell'antenna. Ma non ti puoi permettere di dare niente a nessuno. Devi essere pronto. Quando ti dicono, mi dai un segnale, tu dici, se sei, no, gli devi dire, non sono in condizioni di dare un segnale a nessuno perché non ho un'antenna efficiente. Quello è chiaro, quello è chiaro. Perché a volte a me mi hai detto che la mia radio era satura, però vedi che la mia radio non è satura. E allora? Quindi devi prendere, devi dire, non sono in condizioni di dare un segnale a nessuno, perché non sono in grado, perché per via della mia radio, per via della mia antenna. Questo è il fatto, questo è il fatto. Già, non ti offendere, però è così. In radio si affrontano comparazioni serie e bisogna anche prendere e essere consapevoli di quello che si dice. Quindi non è così, almeno sul 12, poi vai sul 10, poi sul 10 si fa quello che si vuole, almeno sul 12, lo sto dicendo chiaro chiaro, quando chiamate, se ci sono roba che non va, io prendo e per quanto mi riguarda non rispondo e faccio QRT. Di nuovo buona serata, questo è l'ultimo passaggio che faccio e si può dire quello che si vuole. Buona serata a tutti. Vai Gianni. Ehi Agapi, ma io non ho mai detto niente a nessuno, nel senso che da che non funziona, che non ti sento, non ti busso da un segnale, oppure quando uno mi chiede un segnale e ti dico che non funziona, che non risolvo, che non funziona, e poi è inutile che do una cosa per un'altra, cioè una parola per un'altra. Io quando ho comprato questa antenna l'ho comprata perché l'ho voluta comprare con la scusa che me l'hanno consigliata e niente, basta, sto usando questa qua. Poi come hai detto tu, quando sarà magari adesso che magari ho magari un po' più di esperienza nel campo di questo settore qua, mi organizzo e mi compro un'antenna come Tesidoc a tutti i givi. Però non è che io quando mi chiedono le cose gli dico cioè Kuguma roba fuciù di dreno, no. Anche quello c'è, e niente, però se ti dico che non ti sento, non ti sento, oppure magari cosa ne so, magari c'era qualcuno sotto e quindi magari a me mi tappava e quindi non lo sentivo l'altro. Però quando io li sento parlo con tutti, perché io dico basta che mi sentite e che io vi sento, si può fare una conversazione. Poi se non si sente, pazienza, tutto lì. E infatti vabbè dai, ma è meglio sempre un gufo che sento malanni. E niente, dai, adesso magari si abbona il tempo anche di più vanno le giornate, e vedrai che me la faccio sistemare bene da Davide e mi metto anche l'antenna all'altra parte, così ho la radio a una parte e la radio all'altra parte e mi va bene così, almeno faccio un po' di ascolto e ti basso il demo, cosa ne so, boh. E niente, dai, del resto già va bene così, dai, va bene così. E uno quando non le sa che le cose gliele dicono, magari gliele dicono con una certa convinzione, chi lo magari mi gridi a chi magari sa che tu è esperto, invece magari te l'ha detto giusto per dire a chi non sapeva cosa dire, e io magari l'ho ascoltato ma ci sta, da una parte ci sta, perché magari cosa ne so, almeno sai che puoi trarre vantaggio da uno, puoi trarre vantaggio da un altro, tutto lì. E poi adesso bastami che ti informi un pochino su chi sono le radio e le antenne le apparecchiature che sono più gettonate, e sai che funzionerà più bene tutti i tipi. E poi vabbè, già non devo fare grandi conversazioni io, quindi già mi basta anche così. È che il punto critico mio è che non riesco a muovermi per potermi fare le cose, se no avrei fatto le cose belle e fatte bene come le ho sempre fatte. E purtroppo un po' mi devo rassegnare da quella parte, e dall'altra parte un po' ci devo sperare, pensare, e mi faccio aiutare da Davide se ha il tempo. E niente, a chi mi vuole aiutare in questo settore della radio qua. Poi del resto che avviene tutto piano piano. Se tu si uni, nel senso, se i segnali ci sono, già si sente bene. Se segnali non ce n'è, che c'è qualche anomalia o qualche, allora non si sente. Tutti i chi, dai, va bene così. E vi dimo da contare tutto quanto il sistema. E ti mandiamo i russi, guai, tanti sono sabotendo i bugaribbi. Tutti sono guastenti. E gli americani invece sono sempre con la mania della mannezia, della butta, di chi, dell'altro. E sono tutti una massa di delinquenti. E punto, io ne la chiudo così. Gianni, il problema è che quando si sta in radio si sta anche con la carta e con la penna. No, capito? Quando uno dice, ma devi capire, si sta anche con carta e penna, carta e penna. E quando un corrispondente dice, devi prenderti questo appunto, prende, si segna, e poi sì, anche se uno non ha possibilità di fare installazioni, uno prende, diciamo, chi è in radio prende l'appunto e lo si consegna. Però questa cosa non si fa, ma non da parte tua, ma da parte di tutti, perché poi vai a fare un discorso di elettronica, un discorso di proprio basilare di elettronica, e si chiede quali sono i pin di un transistor, e si dice, no, ma intanto a me c'è quello che mi fa lavoro. No, non è così. Cioè, se c'è il tecnico che ti fa il lavoro, però tu al tecnico devi sapere dire, come che a te già, prenditi, si rompe la macchina, senti il rumore di bronzina, e al tecnico, al meccanico gli dici, no, mi fai il rumore all'alternatore. Dico sì, tu gli sai dire che il rumore di bronzina, gli dici, cambiami le bronzine. E quindi non si fa il lavoro per sentito dire, si fa il lavoro per certezza, quindi quello che vi voglio dire io, quello che ti voglio, perché Vanino vabbè, lui è un professionista, quindi va bene, però già devi essere anche preparato quando si fanno certi QSO che la notte si affrontano, non è che la radio quando si fanno certi QSO ci vuole carta e penna, perché la radio è anche questa, soprattutto la radio è soprattutto questa, si prende carta e penna e si prende nota. A chi ha di appigliati fesseri mi so come uno, non sai quanti fesseri conosci? Vabbè, da naggio tre camere di fesseri, però il bello della radio è dire anche, cioè soprattutto, qualcosa di elettronica che poi può servire, perché vedi, adesso a te nel discorso dell'antenna ti può essere utile, per esempio una Game Master 5 ottavi senza radiali, ma a cosa serve? A niente, è proprio meccanicamente ed elettronicamente impossibile avere una 5 ottavi senza radiali, è impossibile. Questo, boh, non lo so già. Allora vedi, a me mi dà fastidio perché tu spendi soldi in vano, come perché sembra che li butti ascoltando i pareri della gente di merda, scusando la parola. E quando con quei soldi avresti preso una mantofa, un asilo, portate caperradiali e va bene. Antonio della Latte Dolce c'è un asilo, vedi com'è? È forte, arriva forte, e così sei stato tu, Vai Vanni, buona serata e buon appetito. Allora buona cena a tutti e magari ci sentiamo dopo, se coincidono gli orari e ci facciamo un'altra chiacchierata. Anda a vedere, avami porto una spianatina, prosciutto e salata e me la sbrano, va. Anda a vedere.